chi è? Gianni, tu sì. Si dichiara aperta la frequenza, parla. Eh beh, Gianni che? Aspetta di che mi ci stai. Sì, già sono qua. E allora Danilo? Sentando Gianni che? Che si dice? Io adesso mi sono sistemato, mi sono cucucato. Yes, mi adatti e... E mi ho messo l'apparato da partire, almeno non devo stare a allungare il braccio per il microfono. Io preferisco quelli... il campo di quelli palmari proprio perché io ce l'ho vicino al letto, quindi tiro. E invece con l'altro devo avvicinare il gruppo, vabbè c'è le ruote. Devi tirare, si sono consumate anche. Allora, la stazione dei mandroni, vai! Dalla stazione, di gente grugava, che pensa che... Oi, oi, oi, va bene, va bene! E cosa state combinando? Niente, stavo cercando di mettere una mensola, ma non è carico ancora il trapano. E cosa devi fare con questo? Sistemare un parte della stazione, qua. Che stai facendo, comunque? No, una mensola sto piazzando. Ah, vabbè. Già non è cosa difficile. Due stampe! Ehi, non è difficile, no. Ho fatto un soppalco, mi son fatto. Adesso me lo sto allestendo piano piano. Bene, mena. Chi fa da sé fa per treccia, bambino. Cava, cava. Ehi, proprio facciano poi propagazione e poi si è ritirata. E dov'era qua? Su, davvero, su, sul, sul 45. 45? Ci sto andando. Ma propagazione di camionisti? Non so che erano camionisti, poi è sparita e sentivo solo uno. E poi gente in lontananza, ma incomprensibile. E se sono camionisti ce l'ho capito, c'erano tutti gli apparati modificati. Vabbè, anch'io ce l'ho, ma non sono camionista, no? E vabbè, se mai hai fatto l'autista, tutti quelli che guidano, che fanno? C'è la figone, c'è la toccata. L'indole c'è sempre. E allora? Vabbè, io lo stesso me lo sono preso perché era una cosa diversa. Dicevo, io compri su TV, compro un 440, un 240, ma è una cosa diversa, capito? È una cosa... A me la metà. E comunque questo qua è fatto bene. Il mio è tutto quanto utilizzato, c'è la bandiera americana davanti, c'è i bombini che si fanno di azzurro, quando si piace la portata si fanno rossi, e c'è un sacco di roba. No, il mio è tutto illuminato, la bandiera americana, ma non si fanno rossi pomelli, restano celesti. Che bella, che vabbè dai, però, bene o male, questo qua è stato uno dei primi fatti da Lumancone. Che mi stavo dico, perché questo è un apparato fatto con l'incontraccavo. Cara, cara, va bene. Ma a te cosa ti era successo con l'apparato? Si era bloccata la scheda del bip. Cioè non faceva più? No, non faceva più il bip, andava più in trasmissione. E l'hai messa a nuova? Cappa, l'ho dovuto ordinare al continente. È interessante che si possa rivegliare. Io ho sentito quello che mi aveva fatto il CVK, il Galaxy Saturn Echo, che era una bomba, epografia. Gamma gamma, già l'ho sentito anch'io, mi ha dato un po' di video. Da me c'è su YouTube? No, no, me l'ha mandato lui a me. Ah, che non andava a fare? Quello era bello, quello lì. Era fatto bene, era fatto come tutto, come... invece che avere l'eco... l'eco del collo, del Galaxy aveva... Ah, cosa c'era dentro? Che cocco? Anda bene, vera! E vabbè, adesso non è fatto nessuno, sto spinti anche quelli spariti, quelli camionisti, non è stato andato a nessuno, cosa ho fatto? avvenuto, come si chiama? Domenico. È venuto a comprare un pesce da me, no? Praticamente mi ha detto che non è stato usato, che non c'è nato nessuno, questo per l'altro, che qui siamo c'è il telefonino, c'è cosa lui deve fare. E ma una cosa diversa, sì, lo assicuro che è arrivato, gli altri tutti venuti. Pare che abbia avuto anche quello che lui ci deve nomere, come si chiama? Il Maio. Cessura, ma in pensione è andato Domenico? Ma non penso, quando è venuto da me non me l'ha detto che era in pensione, se no non avrebbe detto niente, no, ma io non sto pensando, ma come non manco più in casa, quindi vuol dire che sta ancora lavorando. E prima ci sentiva spesso, la notte, quando arriva l'accompagnava vicino a un pezzo, perché poi non lo sentivamo più, però si sentiva ogni sera, diciamo, sentiva. Già me lo ricordo, che faceva le tratte da Olbia, tra TNT. E lo sai cosa mi ha detto? Che una volta in estate con la propagazione ha sentito a me solo, tutti questi non li sentiva, sentiva a me anche bene dal mondo. E agli altri non li sentiva, sentiva solo a me. Cara, cara. E come ha fatto a arrivare a Olbia, che bisogna di montagna? Con la propagazione, parte qua e parte là, dice arriva. E arriva, che mi sentivo anche bene, ma... Hai visto già? La sapenza è proprio un punto interrogativo. Io pensavo che a Olbia fosse fatto da 25 anni. È difficile, forse in propagazione ci arriva un po'. Perché è tutto montagna, anche la radio fa levare, c'è tutto, che cosa, no? Cara, cara, è così, tutti i monti. E non si è sentito nessuno, non si è più sentito un golpetto, chissà come non ha detto, non si era capottata l'antenna col golpetto. Ha preso il volo. No, non ho più sentito, soltanto era molto frequente. Ieri ce n'era gente, ma non era come gli altri giorni. Sono tutti ancora a faccia piena, non hanno voglia. Tutti patronati, vedi il caffè Mauro. Oia, oia, oia. Ma che c'è? E tu Daniele, oltre volontariato stai lavorando o no? Vero già. Casino, non c'è la tua moglie. Zero. Zero negativo. E allora le cittadinanze se le prese questa volta. Cappa! Io auguriamo che serva a dare lavoro alle persone, che in Germania non sono andato a lavorare. Poi c'era un amico mio da tanti anni e mi diceva che in Germania c'era questa cosa qua, che praticamente se uno non lavora ma gli dava lavoro, ma se escludo la tutela. Ehi, oh Dani, ti devo lasciare che stanno venendo a casa a prendermi e devo portarmi a fare una visita. Ci sentiamo magari più tardi, dai. Te ne saluto. Ok, già, dai, intanto io sono qua e sto facendo roba. Ci sentiamo dopo. Sì. Hola. Cambio. Hola. Cambia, cambia. E allora, che si dice? Buonasera. Ciao Daniele, buonasera a te. E allora Massimiliano, tutto bene? Sì, sì, abbastanza. Non c'è male. Mi stavo riposando un po' la schiena, che era mal di schiena, capito? Fai bene, fai bene. Che domani nuovo giro, nuova corsa. Ah, io rientro lunedì. Beata a te. Sì, vabbè, tanto. Rientrare per un giorno non conveniva, quindi abbiamo fatto il ponte. Gava, gava. Bene va questa modulazione, Massimiliano. Sì, è buona. Aspetta, Guarda adesso, qualcosa è cambiato. Un po' più forte adesso. Più forte? Leggermente, sì. Eppure sono attaccato, sto dando 5 watt. Forse qualcosa in più, aspetta un attimo. niente, eh? Guarda adesso, Massimiliano. 9.15, da 9 a 9.15 fa. No, la radio, non il segnale, qualcosa sta succedendo. No, sempre buono. Cava, sono 70 adesso, eh. Riportala con un watt e aggancia. Aspetta, eh. Guarda adesso, un watt, tondi tondi. Ma si è sceso di 5 dB, ma la radio è molto più bella. Un po' se la mangia, no, Massimiliano? Eia, se la mangia perché quelle radio modificate devono viaggiare con 1-2 watt, non di più. Cava, cava, aspetta, ne stacco tutto, intanto non mi serve. Lasciaglielo attaccato così, ora di nafuti. Sì, vabbè, aspetta. Ecco, attaccato. Cava, è buono, buono, vabbè. Cos'è quello piccolino? Cava, quello piccolo e nero. Va bene, va bene. A voglia, già aiuta, già aiuta. Ehi, a voglia, a voglia. Va bene, stasera ho fatto una prova con un camionista sul 5 che era giù a Porto Torre, stava arrivando 7 attaccato. Non so da dove fosse, se deve partire il porto. E allora, ce n'è per i maiali, per la posizione che hai. Va bene, va bene. Mentre facciamo le prove con, come si chiama, con coso, lui è all'ingresso di Porto Torres. Lui è in zona Lilioni, no? Loro erano proprio vicino al porto, erano i camionisti. E allora va bene. E vabbè, ma cosa stai facendo? Ti stai ricostruendo la canna a pesca, cosa stai facendo? No, niente, ormai sono a posto, Massimiliano, che canna da pesca. Ah, pensavo che ti stavi mettendo la canna a pesca. No, no, no, quando ho voglia e tempo la proverò, ma giusto per curiosità. E allora così vai alla grande. Mi sto finendo la stazione qua, che ci ho messo una mensola, e così c'ho il tavolino sotto, la mensola che c'ho, la radio attaccata, con la staffa messa sotto, e sopra c'ho tutti i gingilli strani. Cappa, cappa, va bene, va bene. Io qui dentro non sta più nulla, il resto è tutto nella scatola. Oh, sono tornato ai vecchi tempi, Massimiliano, tutto appeso a destra, a sinistra, sopra. Ma sei una futi, è bella lo stesso, cosa te ne frega. Cava, cava, mi ho recuperato, l'ho messo nella mia ex camera che c'avevo su da mamma, che l'avevo fatta giusto per le radio, l'ho messo di cucina, verniciata di nero e adattata. Cappa, cappa, guarda, io ti giuro, io se avrei avuto il posto come si deve, scrivania, roba così, le avrei messe tutte, cosa me ne frega. A me piace anche vederle, non tenerle dentro la scatola. Quello è poco ma sicuro. Che è un peccato poi lasciarle lì dentro, sapendo che ce li hai e mettendole lì dentro. Vabbè, e cosa vuoi dire? Il posto è questo, quindi mi ho messo giusto quello che usi di più, dai. Non volevo mettere niente lì, però poi alla fine, agiri tu. Ma me lo vado in là, quando non c'è niente da fare, accendo e faccio la chiacchierata quando c'è gente. E allora, Massimiliano, guarda, c'è il posto per te. Aspetta, guarda. Cava, cava. E quello che c'è sotto è originale, che se vuole è nuovo nuovo. E allora, quello è nuovo fiammante lì, Massimiliano. Ce l'ho preso e usato pochissimo. Era sempre in macchina, ma sempre spento. E beh, perché non glielo dici Albino e ti fai fare i 120? E te lo lasci così originale, però con i 120. Gli ho già detto, più avanti già mettiamo in cantiere anche quello, Massimiliano. Ma senza scheda, senza nulla, è giusto per avere i 120 e basta. Adesso mi stavo... Mi aveva contattato uno che aveva messo un annuncio per cercare la scheda del VIP, no? Su quel mercatino di Orissano, cosa era? Mi ha chiamato uno dicendo che lui a breve avrebbe avuto una scheda, ecco, e tutte cose, col VIP, canali, e sta smontando tutto. Però non sapeva quanto ne potesse valere. Appena smontata fammi sapere, adesso se mi scrive vediamo di con poco di portargliela via. Ma guarda che scade, ecco, così complete ce ne sono anche a 40-50 euro col bip. Già l'ho visto, da quello MGG, come cavo, MGGD, cosa era? No, ma senza quella roba così te la prendi seria. Sabatino, tu scrivi su Facebook, mago delle tabelle, la chiedi a lui e te la fa arrivare già completa. Com'è che si chiama? Massimiliano Sabattino. E io, guarda che c'è scritto mago delle tabelle, Tamarro Sabattino. Ma su Faccia di Libro o su Google? No, Facebook. Questa è fatta da lui. Gama, adesso provo, lo cerco a vedere. Lo cerco. Oh, tanto una la voglio te originale, ma giusto per curiosità. Sì, vabbè, allora se l'avete originale usate una fuzzi. Una ce l'hai, una la tiene originale. Sì, originale per mobilità, ma se riusciamo a mettere anche 120 canali. Come stavi dicendo tu, un po' di fatti, 120 canali e sta viaggiando, Quella metti, 120 canali, poi le metti il finale, 19,69, per darti una ventina di watt. Gava, e allora? Si può fare in tanti modi, ma è con la O finale o con la I? Sabattino. Gava, aspetta, adesso c'ho poca linea, c'ho. Adesso ti mando un paio di schede Colt, aspetta. Che era? Questa l'ho fatta io stamattina, guarda che scheda Colt. Aspetta che la sto aprendo. Cazzo, allora, questa gira bene, mi Massimilia. Ah no. quelle girano bene, sì. Guarda, aspetta, te ne mando un'altra, aspetta. Gara. Guarda le altre, come girano bene con le schede Colt. Cazzo, allora, sempre meglio, Sei andate migliorando così, Gli anni ho fatto, è che mi sono tagliato dopo pranzo perché non mi va di schiena, capito? Mi ero sempre incinato. Poi sono messo in pantaloncina, ma è che è corta, le 7 mesi di manzano, era un freddo. Saldando stavi, no Massimiliano? Perché poi c'era un po' di maretto, capito? Quell'onda lunga quando arrivava, più di una volta mi ha bagnato, quindi, e vabbè, comunque. Ci abbiamo portato a casa un pochino, là, di qualcosina assaggiare. Già, va bene per la truppa, va bene, a voglia. E ancora l'acqua è ghiacciata. Fredda sì, trovato l'hai. Cosa Massimiliano? Tu faccio un buco, l'hai trovato. Stavo guardando, no, ma lo trova. L'ha trovato un bel di gente, ma non so chi cavolo sia di tutti questi. Guarda, questo qua devi cercare. Fai? Te l'ho mandato. Cappa, adesso lo apro, aspetta. Ah, ecco, lo sto cercando con un altro apposto. Anche quella di doppio room è fatta da questo. Va bene. Eccolo qua, trovato. A posto. Allora, magari se giri su qualche posto ci sarà anche il numero di telefono, capito? Magari così, non so, a titolo informativo lo puoi anche chiamare domani, giusto per l'ultimo sfizio. Gara, guarda che bello che è questo che c'è in foto. Lo so, questo lavora bene. Tutto bello ordinato, guarda. Lo so, questo è bravo davvero, questo fa scritte, tutto fa. Però questo proprio c'è il laboratorio che paga i dazi. Gara, e quelli davvero davvero. Sì, questo se ti manda la scheda lui si è a posto, poi te la fai piazzare dal vino. Anda bene, senza fare modifiche strane. E allora, te la fai mandare completa, le puoi chiedere la scheda dei 120, le puoi chiedere se ce l'ha, sicuramente. E poi vedi tu se devi fare colto e cosa ne so. Eia, va bene, se no andiamo e miglioriamo questo, Spendi di più. Davvero? Sì, spendi di più a fare quello. Perché deve togliere e mettere e poi sistemare, no, giustamente. Quello in poche parole lo smantella tutto e ci mette tutta la roba sua e ti costa di più, capito? Gava. Io mi informo per curiosità quanto ne vuole a farne uno. Guarda, io penso che senza il doppio modulatore va intorno alle 250 euro. Gava. Va bene. No, ma prima, giusto per curiosità, che voglio prendere quella storia là prima. quella mi interessa di più. Sì, vabbè. Beh, alla fine cosa ne va? Pure quello già è vero. È così, boh. Almeno ce l'ho un po' tutta la radio. Buonasera, cambio. Ciao Eugenio, buonasera. Buonasera Eugenio. Ehi, buonasera a tutti. Chi è, chi è? Che non vi ho riconosciuto. Andiamo, vai Eugenio. E chi siamo? Aiuto, spara. L'apparato di questo, sono una torretta. Stampa seduto. Daniele, da questa è Massimiliano. Buonasera. Perché sono qua a Sadai, appena passate le gallerie, lo chiamo il sito di supporto e la motivazione è cambiata. Capito? Ciao, ora siamo anche in compagnia di Massimiliano, vai Massimiliano. Ma non mi sente a me, capito? A me non mi sente niente. Io ce l'ho sotto casa, si può dire. Ciao Massi. Ciao G, buonasera. Buonasera. Guarda quanto va bene ancora il camper, guarda, mamma. Cos'è? Se va bene il camper ancora. Guarda un po', mi senti anche tu? Certo che va bene. Se lavoro fai bene, per forza va bene. Ma solo voi due ci siete? Sì, non ti battiamo. Oh, credo ci fosse anche Gianni il profeta. Non lo so, siamo un 10 minuti così con Daniela, pinghi poco, ma non si accennato nessuno, ma già la stanno ascoltando, non ti preoccupare. Ah, qui sì. Attenzione, Claudio Sparviero, cambio. Se lo chiami da quella posizione gli spacchi le orecchie. Vabbè, però è da una bassi. Perché c'è questo segnale basso qua? Vabbè. Kappa. E non vedi di bello oggi? Niente, rientrando a casa, ero a Calagualone 5 giorni e adesso mi rientro a casa che domani si lavora. Va tu, c'era la gente? A Puglia, era pieno. Kappa Roggero, davanti Daniels. Gava, io via altri 5 minuti e poi vado a prendere la signora che è al lavoro. Anda bene Meda. Ce li ho a casa, no? Domani la piccola rientra a scuola, cazzo buona lì la vado a rientrare cura, buh. Anche il mio, per un giorno tocca, poi sabato, di nuovo non c'è scuola, poi domenica e poi tricca e tracca altri 2 giorni. Voi ce li mandate, no? Cosa? Hanno mandato la scuola, buona lì, cosa la manda a fa? Che facciamo le coppiette giovane di nuovo. E dove te la trovi OG? Adesso sono da Bricomen, capito? Già lì sì. Cava, ottimo segnale qua per la truppa. Andate, questo è il lavoro fatto da Massimo. Anda bene Meda. Sarebbe voluto un aiutino. Comprati una scarpetta. Dimmi, dai. Comprati una scarpetta da mettere sotto. Già va bene così. Va benissimo. Gava, guarda, questa è la gemella della tua antenna lì, quella che sto usando. Sta guidando, È impegnata la guida. No, già sono qua. Già lo so Daniele, già me l'hai detto la volta scorsa. Andà bene, quella tela va benissimo. Lo so. Già sta girando bene lo stesso, anche questa. Voglia, va bene. Riprendi Massimiliano. Cappa, non è la Energy quella, no? Questa è l'Energy 5 ottavi. No, funziona bene. Va bene. Alla fine sei riuscito a prenderla. Sì, Massimiliano. Diciamo che l'ho trovata. L'ho trovata senza neanche cervellarmi. Non ne ha più quello, UG. Anch'io sono andato a mettere, ce l'aveva. Quando l'avevo chiesto, poi sono andato a mettere, non ne aveva più. Che dovevo ordinarla, ma mi sono aggiustato in un'altra maniera, capito? Ti sento ancora perfettamente alla grande, Ho passato i punti. Va bene. E sto usando un watt, Un kilowatt? Salora. Avviati da casa. Adesso sono vicino a casa di Massimo. Io lo so, infatti ti ha giurito, avviati da casa. KK e K Roggero. Va bene, va bene. E quindi te ne stai rientrando e dove lavori? Stasera lo lavori. Va bene, va bene. Se no che ci offendo i compiti a manettone. Oppala. Perché se li lascia all'ultimo giorno, capito? Prima viene il gioco, no? E poi se li lascia per l'ultimo giorno i compiti, devi capire la sera, va. Come abbiamo fatto un po' tutti. No, io no, non lo facevo proprio. Ah, ecco, così non sbagliavi. E allora? Va bene, va bene. Superato è San Giovanni oggi. 9.40 a sequa. A me è sceso da 7 è passato a 5. Però è ultimo. Ah, ma penso che comunque fino a casa sua lo senti bene. Sì, se c'ha diciamo vatti buoni, sì. Beh, diciamo che più che 5 watt ci vuole un'antenna seria. Per 5 watt già si arriva da Sassera Porto Torres. Sì, va benissimo, poi quella celeste, no? Va bene, a voglia. Lì per essere proprio per essere più performante potresti mettere una PLC 800, ma per le volte che le usi va bene anche quella, capito? Quella più leggera, meno impegnativa, quella che è sotto, capito? Come più corta? La PLC 800 è alta 1,70 m. No, l'800 e la 1000 hanno la stessa altezza. Addirittura non voglio proprio sbagliare, ma forse 1,80 o 1,70 e 1,80, sia l'800 che la 1000. No, quella corta che dicendo tu è la 600. Ma quella che c'hai tu sotto va bene, a voglia. Aiuto, venite a baracchino, sono entrato io. Ciao Tino, ben sentito. Sì, Eugenio, a voglia, c'hai sempre lo stesso segnale, sempre stabile a 5. Spegnete i baracchini che non voglio sentire nessuno, dai. Dai, scusate, li prendo io che devo scappare, anzi volare. Ci sentiamo dopo se coincide, dai. Bene, già uno se ne sta andando. Ciao Daniele, ci sentiamo, dai, le prossime. Ciao Tino, ben entrato. Avanti, Eugenio. Buonasera, ciao Daniele. Caparroggio, dai. Ci sentiamo dopo, vado a prendere mia moglie. Ciao. Ciao, ciao, a dopo. Poi ci sono questi francesi sotto, Santiago Sette, so. Sì, stamattina stavo facendo un giro di prove. Sono con lei, poi agganciato. One moment, please, stand by, che via, andate. Sta rischiando un po' di propagazione, no? Niente, Eugenio. Eugenio, risenti questi francesi, tu? Ho capito. KK e K Roggero. Vabbè, sono un po' mal di pancia, ti capito. Sono con la papagiana che ti ha fatto male. Alzarsi presto sia la mattina. Ma forse che ne ho anche voglia di mangiare. Perché un tempo già ne faccio qualche io, però poi ho mollato. Sono buone. Ma io non è che ci vado spesso, Ma ci vado così una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, E adesso ieri, mi sa che oggi vado a farle un po'. La mattina mi sono alzato presto, sono andato. Da buon mangiato ho cucato a 2 kg. No, io ieri mi hanno portato, sia ieri che stamattina mi hanno portato poi il barattolo della 250 di polpa, e quindi ho dovuto strappare, che è quello che mi piace. Ma dove sei andato? A Portoferro? No, allora a Portoferro. E a cosa? Più avanti la torretta. Ah, capito. Non ce n'è più lì, a Portoferro stavo portando via anche le pietre. Addirittura. E allora? Qua vicino, 10 minuti in macchina, sei lì. E ci vuole mezz'ora, poi magari devi camminare parecchio lì, capito? Invece qua è tutto vicino. E va bene così. C'era un po' questa onda lunga, mi ha dato che vado al bagno, ma comunque. Ho visto le fotografie, stamattina era calmo. mamma mia che ha fatto un giro lì. Ho visto che c'era, insomma, male a casa. Sì, no, no, era... stamattina quando sono arrivato era Julio. Poi si è alzato poco poco di corrente, capito? C'era, ogni tanto arrivava questa onda lunga. E vabbè, hanno piacciato per mezza leva, di fare la beffa. Comunque, mi ha suonato bene lo stesso. Avanti, oggi, forse non mi sente più. Eugenio, vabbè. Sto scendendo verso Portatore, sei in camper, ma... Ma non ci arrivo più da lui, bru. Ma, Eugenio, come è al camionato? Io magari non può parlare, boh. Non lo saci. La torre di controllo. Oggi non l'ho sentito. Mi ieri abbiamo registrato nuovamente la car radio. Come va? No, la car radio, sì. Sempre con quella là. Questa. Sempre il presidente. No, no, giusto così. Di Mike. Niente di che. No, va bene, va bene. Eugenio. Ehi, Eugenio. Infatti ho detto, boh, non mi risponde, sicuramente o non ci arrivo più lì, boh. E tu sei quasi 9 qua. Ciao, ciao, Eugenio, ci sentiamo, buona serata, là. Avanti. Non so se mi ascolta a me. Ciao, Eugenio, buona serata anche a te. Sì, io ti ascolto, voglio. No, comunque va bene la radio. Va bene. Boh, non era, dice Claudio, come era così, abbiamo fatto un po' di passaggi in manda. A un certo punto vediamo quello che usiamo, mettiamo quello là, sempre la solita. Ma no, cazzo, ma stai scherzando, no, vai, finiscila. E poi sempre la solita. Il Lincoln. Ah, sembra con l'altra. Deve essere che si è svegliata, cosa lo ripicca. Io l'unica cosa che c'ha questa radio, lo sai che cos'è, Rotti? Che è un bel forte come tipo di radio, capito? È molto aperta di LC, boh. Non lo so, non lo so, infatti ho provato anche a passarlo, in base a chi mi diceva di lasciarla così, l'ho lasciata così, non è che non riesco a quantificare la modulazione. Cioè, non è che non va bene, ti ripeto, però secondo me è una radio che spinge un bel quella, capito? Secondo me è per quello che non riesce a regolarla. Per me magari è troppo aperta di LC e magari va sulla saturazione per questo motivo. Ma non lo so, è una mia cosa, però comunque per fare questo così va bene. Ah, perché te lo senti satura? Non è proprio satura, ma si è al limite. Si è al limite, perché io, vabbè, forse perché magari noi siamo anche vicini, capito? E io ti sento un bel forte, è per quello. Però vabbè, a me già le radio forti già mi piacciono, eh? No, non so cosa dirti. Questa vorrebbe provata con degli strumenti, e magari vista sul banco, prima di stare lì a cacciavittare tanto. No, l'ho chiusa. L'ho chiusa, l'ho lasciata così e basta, non aggiungendo la scivola in capo. Con trimmer e trimmerini, già va bene. No, lasciala così, poi magari quando c'ha 10 minuti quella persona là, magari gliela dai e te la fai lineare. Tanto. E non te lo fai lì, ho cacciato vite in mano, va bene così, va bene così, poi magari va bene a uno, va bene all'altro, quindi. Quello è quello, perché poi ti ascoltiamo con tante radio diverse uno dall'altro, capito? A uno gli arrivi bene, a uno gli arrivi troppo forte, a uno gli arrivi saturo, quindi alla fine lasciala così che va bene. Andrai. E tu quando riprendi? Lunedì? Yes, lunedì. Lunedì facciamo lunedì, martedì e la buio, mercoledì torno a casa. Quanti chilometri sono a casa tua? Una trentina, buona. Adesso sono vicino e sono 40, 42, 43 e sono nella cava di Ardara, dentro la Svimisa, non so se lo sa dove. No, vabbè, sono passato lì per andare a Joe Village, ho visto la macchina, credo che siano le vostre. Sì, tutte le nostre, da Meserios fino ad arrivare a Monti, quelle che vedi in circolazione, tutta roba nostra. Infatti. Mi passo anche a vedere tramite una fotografia, ho cercato di riconoscere la zona, non so se era quella, sopra un po' di materiale da caricare sopra il camion dal tuo. No, il mio non si vede dalla strada, io ti ripeto, sono dentro, attraverso il paese addirittura di Ardera, io non sono sulla strada, mi hanno spostato. passato da poco lì, Mesina, e quindi dalla strada non si vede, però io già sono sempre sui mucchi caricando, va. Ah, va bene, va bene. Scappa già. Dammi un secondo che vado giù a berverarmi, a tipo pecora. Meglia, no, qual è? Corretto. Cambiamo un po', va. E beh, ogni tanto. Sì, va, ogni tanto ci vuole. E questa cos'è? Questo è il serpente. Ma l'altro era, se no. Scappa già, l'altro non sono così. E l'altro mi piace di più come radio, eh? Lo so, quella lì però è più elaborata, diciamo così, no? Ecco. Ma che questa già è bella, già, però è più prepotente quell'altro, più da battaglia. E lei è preparata apposta quella lì per far casino, no? Capito. Però te lo voglio far ascoltare con il Sergio Bussava, con il microfono originale suo. Ma aspetta. Sì, se trovo il microfono, aspetta. Vai. Guarda a vedere, questo è il suo microfono originale. No, è forte, la radio è forte, però si sente che è più pulita, più non è amplificata, ma è abbastanza forte. Forte anche con il suo microfono, vero? Sì, sì, è che è normale, non si sente che è amplificato, ma è, va bene. E quella è la comodità di non stare col microfono in mano, capito? Questo in poche parole è stato adattato perché il suo, quello del Cobra, non la ciappo più. E quindi questo qua è tipo uno di quei CTM, però è della Lafayette. Ah, ho capito, ce l'ho pure. Però io quello CTM, guarda, sono uguali. Sono uguali ed ho cambiato le connessioni, Però questo è bello perché c'ha il cavo morbido, capito? Lo puoi allungare quanto vuoi. Sì. No, io ti ripeto, se riesco a realizzare per fare quella sporta di acquisto, magari ne faccio pure volte un altro, così almeno mi libero un pochino. E intanto quella roba così non le usi, capito? Fatela fuori, fate qualche foto, mettila su qualche mercatino. Lui, sai quando una cosa non ti interessa fare, cazzo. Vabbè, quando mi viene voglia ci hanno armato le mercatine, ma tanto non vengono valorizzati per quello che hanno, anche se hanno delle modifiche, cosa vuoi, più di 100, 120 non ti danno, non è che se te le danno pure. Per qualche duro qualcosa di importante c'è, capito? Poi, cosa vuoi ti dica? Aspetta che riattacco l'altro microfono. Hai fatto un passaggio che non sei uscito, Cioè, è uscito la porta, ma forse non è schiacciato bene. Non è uscita bene, perché non stavo schiacciando bene il PTT, capito? Adesso questo è Partner più 3, Coloneros, a metà di amplificazione. Però questo, vedi, è una radio un po' più cupa, diciamo, non è proprio chiara, rimane capito. E adesso lo so la faccio, domani se ne ho voglia, c'ho il più 5 e mi faccio uno spezzone, però, capito, non cambio le connessioni al microfono, faccio lo spezzone che fa da questa connessione a Midland, capito? Così va bene, anche io c'ho uno di spezzone, sono fatto a cambiare sempre connessione, quant'altro, no? Gappa, così non sto a cambiare, perché io, diciamo, come connessione così diversa, c'ho questo e un altro, basta, poi il resto sono tutti Midland per mia scelta, là. Anche io ce l'ho tutti a 4, giusto per stare lì a, poi vi sto beccando lo spinotto direttamente, perché c'è anche lo Sergio che è a PIN, no? Lui l'ho lasciato così, ho fatto un retto con uno 4 normale come il Midland, e poi utilizzare vari microfoni, c'è il 5 e il 4. parlo, sono io l'unico che lascio è il Ranger, perché quello è a 6 punte, se no mi devo cambiare sia quello della radio che quello del microfono, ma quello lo lascio così originale. E va bene così. Andare, mi posso domani faccio un salto da quelle parti, così riporto quest'altra e metto un'altra. Mi sto per tanto. Non so neanche se rientrato, provo a vedere. Roger, sì, scusa che ho cambiato di nuovo. Ho detto che sicuramente domani, signor Puglia, mi faccio un salto da quelle parti di mattina, così almeno riporto il Ruiz. E magari ne prendiamo un altro per sempre per prova, non lo so, vediamo, provo direttamente un altro giorno. Ah, già ce n'hai scelta lì. Sì, vabbè, cioè, ma sinceramente non è che sia, perlomeno per me, non è proprio tutto il mio video gradimento, è giusto queste vintage che mi piace provarle, averle, non lo so se mi sarebbe piaciuto averla, ciao. Sì, vabbè, e tanto. A me la verità è lo stesso, i vintage mi piacciono molto, i base specialmente. Ne ho avuto due o tre, però me li ho fatti fuori subito. E già sono in zona lo stesso, sono rimasto in zona. No, ti ripeto, il Ruiz era bello, l'ho dato per fare scambio con una persona, mi ha dato un bel veicolare, lui e io gli ho dato quello. Però un base così, quando c'hai, vedi, un Saturn Eco, quello va bene, non c'è bisogno di alimentatore, c'è i canali, c'è tutto, quello è una bella radio, vedi, e che ha bisogno molto di spazio. Ma guarda, sinceramente, per il Saturneco preferisco il Pluto, perché ha le stesse cose, però è troppo spazio qua. Sì, perché guarda, sono belle, però questa per dire non funziona, non va controllata, le bande, sono le bande, l'orologio. Quindi poi vabbè, già si è preparata carica, però è bello averla da vetrina, usarla ogni tanto, ma non utilizzarla sempre, diciamo. Sì, ogni tanto cambia, sì, ce l'ho avuto anch'io il Pluto. E poi il Saturneco dentro è un Pluto, attenzione, no, se tu lo apri è uguale al Pluto, non ti credi che va già detta che cagosa. È giusto la carcassa che è molto grande, ma dentro è piccolo, dentro è un Pluto. Capito? No, già l'ho sentito al vicino di casa con quel Pluto che ha preso la Gigi. Ma io lo stavo utilizzando io. Sì, no, quello già fa, quello spinge. Quindi infatti stavo pensando di prendere ancora, addirittura quando ho messo l'attaccato all'alimentazione sono entrati gli spinuti all'interno, quindi l'ho dovuto aprire, sistemare, lo mettere un pochino di con la calda per bloccare gli spinotti, se no se li spendeva sempre all'interno, capito? Sì, l'ho già utilizzato questo. Il problema è quello che quando li agganci qualche scarpetta devi stare attento a bruciarla, che spinge troppo. Allora, gli ho regalato il primo, 210 sono le spazio, non mi ricordo se è 210, comunque cercherò di sì. L'ha attaccato lì. Che fine ha fatto Spot? Cosa ti ho detto? Quello è una radio da usare così, senza niente, capito? Che mi sembra di spingere intorno a una cinquantina, 70 watt, una cosa del genere. C'ha già due MOSFET dietro, un linearetto, capito, già agganciato. Vabbè, però non sapendolo, sicuramente l'ha attaccato direttamente, già va bene, per un po' però poi. Non sapevo dove era il cursore del watt, perché era il watt regolabile, capito? Quindi ha provato e poi sino a che l'ha fatto fumare. Così è. Anche noi a casa di Claudio un giorno, quando aveva quel 48 che il suo spingeva molto, gli ho portato un 550 a provare, non mi ricordo, a sorso, e gli ho detto dagli un po' di watt in più, gli ha dato 3 watt, mi ha dato, come stava parlando, ha detto guarda che da dove si è sceso a segnare 3, fatta, gli ho controllato, tutte e quattro le ha bruciate. Allora, oh yeah, no, ma domiciliare, ma sono così adesso per dire io ho un 48, se voglio dire una cosa, ho questo 48 qua, che sicuramente me l'ha fatto Albino, mi ricordo che me l'ha fatto Albino questo qua, che però non sale più di 4 watt ora, e prima faceva molto di più. La modifica me l'ha fatta lui, sia dei 120 canali che dei watt. Non mi ricordo la modulazione se l'ha fatto, non mi ricordo. L'unica cosa che è successo adesso è che non sale più di 4 watt, sicuramente è partita qualche cosa. Sì, basta guardarlo, magari qualche diodo, qualche resistenza. Ma capisco un cambio, ma se mi metto a aprire, se mi dici tocca a questo, ma per vedere, apri, chiudi, allora è un conto, ma se mi metto a controllare cosa, non ho prenuto. È una radio vissuta questa, anche l'hanno regalato, gli ho abbinato la canale, ecco, tanto è vero che un 4 watt sta pilotando quel 250 watt. E se no basta darglielo Albino ed è come ha fatto Daniele, glielo fai vedere, magari è una cazzata, però magari aprendolo così, no, lo guardi se c'è qualche resistenza alle dita, già si vede se c'è qualcosa così. Guarda, a me me l'ha portato Benito, non so se lo conosci, l'Albino, ma perché era di passaggio, non è che era di passaggio, facevo una cosa lì e l'avevo lasciato, e poi dopo due giorni me l'ha detto qua. Non ci hai pensato magari quando è sceso Daniele a portarsi il suo, a darlo a Daniele, te lo controllava e poi te lo riprendeva. Non sapevo che sta parlando lui. Ma io l'ho detto io, tanto perché Albino è molto economico, capito? E vedi, gliel'ha fatto funzionare, con poca spesa, sa dove mettere le mani, ma secondo me qualche diodo lì che è partito. E se no mi sembra strano che se prima spingeva di più adesso sale solo 4 watt. Allora, se non mi sbaglio, me l'ho fatto da mezzo watt a 18, una cosa del genere. A un certo punto ho guardato il watt dopo un po' di tempo e di più di 4 non sale, ce n'è forse anche 3. Ma ti ha messo anche il finale, ha cambiato oppure ha lasciato il suo originale? Ma non te lo so dire, no, io gli ho dato a lui, gli ho dato quello che mi ha chiesto e mi ha trovato così, andava bene, la scheda di 120 canali e più di una copiata ci ho messo la canale eco esterna, però solo che non ho capito il perché, queste canale eco sono fatte così. Credo, no? Se vuoi parlare normale la devi staccare, se vuoi la camera d'eco invece devi parlare solo con l'eco, e questo non è che mi piace tanto, diciamo, perché non lo fai lì a collegare, scollegare, capito? Ma io ce l'avevo la camera d'eco, non era così, l'avevo attaccata su un Intec, il 500 mi sembra, o il 548, una cosa del genere. E avevo fatto fare lo stesso d'Albino la modifica, avevo fatto mettere i canali, mi aveva fatto 240 canali, cosa mi aveva fatto poi? La regolazione dei watt e poi un'altra cosa, poi non me ne ammetto. Ah, forse il finale mi aveva cambiato. E gli avevo accoppiato questa camera eco all'esterno, ma quando la camera eco non la usavo, la spegnevo dal suo pulsantino, tac, e parlavo normale. Quando lo usavo con la camera eco, accendevo la sua camera eco con l'eco e tutto. Perché cioè, tu vorresti parlare con la camera eco però senza l'eco, così mi è. No, io vorrei parlare normale, poi quando mi serve l'accendo, l'attacco, senza fare lì a togliere il microfono, a metterlo. Cioè la camera eco, diciamo, attaccata sopra. Quando mi serve agisco sulla camera eco e basta, non devo fare lì, devo solo accenderla praticamente. In questo caso invece cosa succede? Che io accendo l'apparato, devo accendere sempre la camera eco e usarla con l'eco. Se dovessi rimanere la camera eco, devo staccare il microfono dalla camera eco e attaccarlo al baracchino. Ascolta, e se tu l'eco lo togli del tutto dalla camera eco, funziona? No, fa questo momento. Come che sia sempre. Aspetta, non sentire. Che strano. Ci sono, sì? Sì, c'è. Vabbè, a parte i bip, che ne ha due, uno è così, e l'altro così. Ma ti sento però io, Non mi senti? Sì, ti sento. qua c'è l'eco. Ok, abbassalo l'eco. Una parola. Dai. Però questo qua, aspettate. Aspetta che... Ma cos'è? Troppo in saturazione? È attaccato. Lo attacchiamo, dai. Dai. Perché ha cambiato la radio anche. Sì, è molto più bella adesso. Vabbè. Adesso io lo abbasso. Lì mi sta andando bene. Ora, 1, 2, 3. Sì, sta andando bene, rimane quel leggero, leggero, quel reverbero. Leggero, leggero. Ma lo devo abbassare ancora? No, puoi anche lasciarlo così volendo. E così sta andando bene la radio. Però tu dici, se la devi usare normale senza eco. Ecco, guarda, io adesso spengo la camera ecco, guarda. Che non sei uscito più. Non ti ho sentito, dimmi. Vabbè, non sei più uscito. E a me fa trrrr. E poi anche il ciclo della recensione, capisci? Ma non è che c'è qualcosa sulla camera ecco? Non lo so, non so cosa dire. Da qua è diventata e basta, sono... Sicuramente prende l'alimentazione anche dal microfono della radio, perché prende solo l'alimentazione. E allora potrebbe essere quello. Sì, però tu adesso con le manopoline, se togli invece tutto l'eco, funziona la radio, giusto? Guarda un pochino, adesso io l'eco, qui mi sente ancora. Ora, c'è, vero? Sì, c'è ancora. E così a c'è? Così non c'è, vedi, la puoi usare così. Ti guardi la posizione dove devi aumentare l'eco e non fai altro che quando devi usare con la camera eco lo abbassi quello, lo togli e la usi. Ah, ecco, così quindi non c'è eco. È normale, mi sono normale. No, così non c'è eco. Mentre invece così è accoppiata, dai. E così c'è l'eco, vedi? Ah, va bene, allora... Allora lasciamo così, a me l'eco mi piace quando lo voglio utilizzare. Allora puoi utilizzarlo, intanto la cameretta eco ti aumenta un pochino l'amplificazione, anche se c'è il microfono normale. E in più quando non ti serve l'eco giri il pomello e lo togli. Quando ti serve lo aumenti, cosa ti nafutti di ogni volta attaccare. Te la lasci così. Infatti guarda, adesso potrebbe anche mettere in radio, no? Eccolo qua. Dovrebbe andare bene così, vero? No, c'hai quello appena appena. Ora, è quello il Mickey Game, vedi? Ah, quando mette il Mickey Game ti fa quel problema? Aia, così, c'è ancora? 2, 3? Ogni tanto si al limite. Aspetta che forse c'è qualcuno che sta chiamando. Avanti, avanti il break. Io ti ascolto, Santiago 5, Radio 2, perché non so da dove stai modulando, ma forse sei un po' lontano da me. Allora, se sei da Reggio Calabria, sei alla grande. Sono in compagnia di... qua sei dal nord Sardegna, Sassari, eh? Ok? Compagnia di Massimiliano Bulldozer e Tino. Avanti, Tino. Non lo so se mi ascolta, no, non lo sentivo. Chi è avanti? Ha registrato il break, Antinino. Chi è l'altro avanti? Buonasera. Sardegna, città di Sassari. 7351 da parte non Frank, eh? Sta iniziando a scendere un po' la propagazione, eh? KK, saluto lì gli amici di Reggio Calabria e niente, no. Sì, comunque ti dicevo, la puoi usare così, abbassi e alzi. Va bene, qua c'è stato un altro break, avanti. Sì, ti ascoltiamo. Antonio, non possiamo dire altrettanto di te, perché io ti ascolto con segnale di 2, Radio 2, a malapena, riesco a toglierti con le pinze. Niente, Massimiliano, avanti. No, adesso da me, Antonio, ciao, buonasera, siete tre cordiali e ben ascoltato. Allora, io Antonio lo ascolto adesso con un Santiago di 5, la radio aumentato leggermente, un po' bassina, ma sicuramente lui è in movimento, vero Antonio? Ok, dai, no, io vado con un S9, con 2 watt di portante e una trentina modulati, ecco. Non lo sento più, ho sentito che sto uscendo con un dipolo, ma è per quello il segnale che è un po' basso, perché sta usando il dipolo. Noi magari siamo con la verticale, quindi... ascoltiamo meglio. Tino, ripeto. prendi che devo allontanarmi un secco. Va bene. Antonio, non so se ci sia ancora perché la propagazione è un po' qua, è andata un po' via, ecco. Ti ho ascoltato sino a chiedere perché stavo utilizzando il diporo. Vediamo un po' se ci sia ancora. Diciamo che non ti ascolto quasi niente, proprio basso, basso, basso, non riesco neanche a capire ciò che mi stai dicendo, Antonio. Stai parlando della propagazione, se puoi aumentare qualche cosina di vado. Antonio, mi dispiace, dai, non riesco più a copiarti. Ho capito che stai andando di polo, però non riesco più a toglierti fuori. Mi dispiace, Antonio. Ti rilancio, vabbè, ti do saluti prima che poi non ci sentiamo più. 735 euro da parte nostra, ancora dalla Sardegna che ti cordializza. E qua da questa parte tiro muscolo. Buona serata. Ma negativa, non lo ascolto più, non ho sceso la propagazione. Antonio, ci sei ancora? Hola. Attenzione, Antonio. E non ci mancavano gli arabi anche. Ciao Antonio. Hola, Franco. E allora? Ho detto chi è questo segnalone? Sì, segnalone. Sempre con te. Ti lamenti? No, io non mi lamento mai. Va bene, Fra. Ottimo, ottimo. Cappa. Boia. E beh, da solo? Sì, boia. E chi è che sta pescando? Oh, c'era la Sicilia, là, a Palermo, non mi ricordo. Ma dopo Palermo è come c'è? Avevano un basso, io e Massimiliano avevano 9, ti puoi immaginare, e lui qua 3. Ho ripreso e ho... Massimiliano, compagnia di Franco. Cappa, ciao Fra, buonasera. Cappa, buonasera, Massimiliano. Allora. Era Reggio Calabria poco fa, là. Poi non so che fine ha fatto, ma era basso perché stavo uscendo con un dipolo. Sicuramente la propagazione va e viene. E adesso inizia piano piano, adesso fra un po' neanche tra di noi, ma ci sentiamo. Ho visto che gli altri italiani, ci sono anche gli arabi, arrivano, a me mi arrivano intorno ai 9.10, 9.15. A me ce l'ha portata, hai visto? Perché ero 5. Arrivano fortissimi, arrivano. Quando c'è, poi a un certo punto si abbassano. Avanti, Massimiliano. Gappa. Ehi, vabbè. Ci avete le strumentazioni per andare ad ascoltare, la maledizione. Perché? Non le hai? No, finito. Ho dato via tutto. Nell'ultimo c'avevo quel ricevitorino e l'ho dato via, quando l'anno scorso mi sembra. Era nuovo quello, l'ho preso, si può dire nuovo. Questo stavo per darlo. Poi invece mi è successo cosa 4.40, mi ha dato 4.40. Gappa, va bene. No, io già ne ho avuto, là. Già ne ho avuto. Però... un ricevitorino già me lo prendo. Almeno ascoltare, dai, già va bene, un ricevitore già va bene. Infatti se l'avrebbe buscato un ricevitore 0.30 avrei dato questo. E che cosa? Ce l'hai e vuoi dare quello per avere un ricevitore? Ma lasciati quello. Vabbè, il ricevitore lo puoi tenere, questo no. Vabbè, tante cose non possiamo tenere, ce le abbiamo, quindi. Quando vuoi ascoltare non devi parlare, quindi è la stessa cosa. Lo so. Poi, avanti, Tino. Poi, tanto per ascoltare cosa? Gli arabi? No, non ti comprendo nulla. Quelli no. Gli spagnoli, a volte li ascolto spesso. Quindi riescono a capirli. Ma già ci sono anche in 40, ci sono BQSO in 80. Sì, quello sì. Ma ci sono tre parti. Stamattina, lo facciamo collegamento, figurati, quando 5 watt, per immaginare. Adesso quando inizia un pochino più il caldo. so, però sai, arrivavano quasi 9 e te ci a provare e già mi hanno sentito. Se poi arrivano che ti sento? Che tu senti a loro, anche a loro riescono a sentire a te, anche la propagazione che ti aiuta. Beh, la propagazione ti aiuta, sì, se non c'è quella no, non ci parli. Beh, appunto, come fai tu in nel 45, lì con quante watt è uscito? Con 2-3 watt? Io con 1.5. Beh, da un poco. E sembra che stiano usando minimo 500 watt. Vabbè, ma sul camion lì hanno, già lo sai, hanno lineari grossi e... se arrivano per 20 o per 30 qua. Io già lo credo, specialmente siciliano, io lo riesco bene. Quindi sai cosa il gabbo lo vale? Ce n'è sotto. Un attimo che mi devo spostare, vedo subito. Certo. Sto facendo un'antenna grande, ma se vedi. Cosa fa? Quale antenna stai usando? Che antenna sto usando? Sì, la mantova tu. No, io c'ho sempre la mantova 1. Ecco. La mitica, è bella quella. La mitica, ce l'ho la bellezza di 18 anni montata sul tetto. Ed è sempre bella, dritta, perfetta. No, non l'ho mai voluta prendere io la turbo. E neanche la 5, la verità. Mi ero puntato sulla mantova 1 e avevo preso quella. Capo. No, io ho avuto di mantova 1 e ne ho avuto 2. E ne avevo comprato 2, poi la seconda stesso cambiata e ho messo la mantova 5, però ti dico che mi trovavo bene anche con la mantova 5, mi trovavo, ed era bellissima. Poi quella lì l'avevo regalata a Vannino, perché avevo chiuso tutto nel 2000, avevo venduto tutto e non mi interessava più niente. E poi invece ho ripreso, non sono dovuto comprare l'antenna nuova. Io guarda, l'altro giorno sul mercatino c'era un avanzo di magazzino, un avanzo va 1, ma in scatola, mai montata, chiusa, perfetta, bella, lucida. E mi è sfuggita per 10 minuti, guarda, per 10 minuti. L'ho chiamato, era appena l'altro. Massimiliano, la stessa che stavo guardando io. Non so se l'ha presa, però io se la trovo la mantova 1 la riprendo. Tant'è vero che gli ho fatto la proposta a vedere quanto è avvento e mi ha risposto a ritardo, te l'ho già dato. Tocca stare parlando con me, te la dato, perché non lo prendo almeno 4. Ma io l'ho chiamato e mi ha detto, guarda, l'ho appena venduta, 10 minuti fa l'ho venduta, se mi avessi chiamato prima, purtroppo io sono entrato così nel mercatino senza sapere che c'era questa cosa qua, e mi l'ha giubbessa, peccato, se no l'avrei presa. No, se la trovo la riprendo la 1, no, la turbo non la prendo, anche perché adesso il materiale che stavo facendo adesso della turbo è molto diverso da quella di prima. Massimiliano, il mercatino quello compro vendo. E io? Allora non l'ho vista io. Allora, ho visto che ci sono le maratine, c'è il microfono, l'M60, e vabbè, quello è di Elio. Quello è di Elio, già lo so, già l'ho visto. Compro. E lui? Non si può comparare. Vagando male. Vabbè, ognuno è libero di mettere i prezzi che vuole, però sono troppo esagerati secondo me. 100 euro, no, troppo, anche se è nuovo, però è troppo. E ci sono direttive, ce ne sono antenne anche, nelle vendita di tutto. Ma mi sa che sta vendendo tutto. No, non lo so, ho visto un po' di roba io lì, capito, su quel mercatino, roba sua. Però ti ripeto, un po' caruccio secondo me, ma non so se stia vendendo tutto, questo non te lo so dire. Non lo so, è uno che arriva a vendere dopo tante spese direttive e tutto questo, calici e tutto, vuol dire che ma non so, non fa neanche più volando. No, non l'ho più sentito da nessuna parte, niente proprio, zero. Ma cosa stai utilizzando, Raffa? Il K. Ah. sono cazzeggio. Che male sta uscendo? No, è giusto per... ho provato a... centrarti io con il driver di questa rider. È un po' così questo driver, dai. Ah, è certo. Sì, vabbè. Diciamo che il barattino probabilmente è un po'... può essere anche un po' sbagliato. Scusate, io ero in basso, eh? Ehi, yeah. In alto devi mettere, non in basso. Aspetta, chi è avanti? Buonasera. Chi sei? Antonio? Capa Rosario. Buonasera, 7351 per la città di Sassari, nonché Sardegna. Operatore Tango India November Oscar. Provincia di Messina, allora va bene, ti arrivo in Sardegna, cosa vuoi? Mi dai un rapporto, grazie. Capa positivo, dai, vediamo se arrivo con questo, allora, se mi puoi dare un rapporto. Va bene, Rosario, grazie, ti mando avanti un avviso nelle mie coordinate, avanti Franco. Ehi, capo, buonasera Rosario, però per me è un po' negativa la situazione per ascoltarti. Ti ho ascoltato un minuto, un secondino adesso, mentre hanno mandato la portante collega qua. Vediamo se mi ascolti tu a me. Avanti Rosario. Guarda Rosario, qua da parte mia, Santiago di 5, Radio 5, va bene? Rosario, mi ascolti a me? Sì, no, non mi ha sentito. Sì, ma guarda che ti ha ascoltato, Massimiliano, vai. Via. No, aspetta, ho controllato un attimo qualcosa. Ciao Rosario, mi ascolti qua nell'isola Sarda. Buonasera, dai, 73 cordiali e ben ascoltato qua da Massimo Bulldozer dall'isola Sarda. Così dico, dai, vediamo se mi ascolti meglio così, Rosario. Aspetta, guardiamo un attimino. Si è girato il baracchino da parte mia, dal rovescio. Rosario, io ti ascolto qua con un Santiago di 5, la radio un po' bassina, ma è causa propagazione, non ti preoccupare. Positivo, anche qua, solo radio, capito? Radio napoletana qua. Radio 4, Santiago 5, sì, oscillante. Ciao Rosario, ti passo gli amici per i saluti, dai, avanti Tio. Positivo, ciao Rosario, ci si riascolta alle prossimine, 7351, salottoni a Tino, operatore Tango India November Oscar, nonché Muscolo, ok, ciao Rosario, buona serata. Mi è andata la propagazione. No, fammi bene, ti ha salutato ti. Non ho sentito io. Ma c'era anche qualche altro che stava chiamando. Chi è che chiamava qua all'isola Sarda? Avanti, buonasera. Positivo, ciao Romeo Charlie, buonasera qua, nord della Sardegna. Massimo Roque Bulldozer qua, in compagnia di un pugno di amici. Tino, hai sentito? Basso. Comunque, buonasera anche da parte mia, Positivo, noi qua, isola Sarda, nonché città di Sassari. Va bene, cambio, dai, facciamo cambiare un po' a Franco. Franco, avanti. Non ho capito bene se è Centauro. Comunque, buonasera, dai, ben ascoltato, non so se mi ascolti. Franco, sempre nella provincia di Sassari, in Sardegna. Avanti a te se mi hai ascoltato. Si è alzata un bella propagazione. Santiago Nove stava arrivando. Positivo, tutto rogere. È caduta del tutto, No, c'è ancora qualcosa. Franco, lampasi tutto. Io ti do un 48, Fra, così da battaglia, Non mi interessa. Franco, ti do un sacchetto di crocchette. Il cane te lo do io. Guarda, il cane te lo do io, tanto ne ho due. Staccatino. E poi non mi sento, chiaro. C'ho un bel 87 e un bel dialetto, No. L'altro giorno ero a Corso, alla corte, ero in casa di uno, un amico, e che aveva un 8 robe, non mi ricordo bene quanti erano, tutti cani da caccia. E uno gli ha detto, dice, vai, uno così, sì, che te lo do, mi lasci 100 euro. metti il cavolo. Vediamo se mi ascolti con questo, Franco, dai, così almeno non vuoi saturazione. Vabbè, là a distanza c'è bisogno di quell'altro. Capo, così sì, va bene. Va bene, va bene, là. Prima o poi. Allora sai, carino, un problema, Massimilia. Sarò con un carino, che non vedi quello pure a me. Io lo gioco. E non mi sono rosso. Mamma mia come sto, raga, adesso magari iniziamo di ex e ci divertiamo là. Ah beh, se riesci a collegarli, se danno cambio, cioè se danno spazio, perché molte volte la gente vuole chiamare, vuole fare, non si capisce niente, quindi non hai neanche maniera di parlarci o parli con i più forti, dai. Sì, vabbè, basta allungare la mano, appena appena. Quello sì. E vabbè, io sono limitato e non è che sono giusto con questo qua e basta. E non ne hai alimentatore a 24, no? No. E cosa avevo a fattiro veloce? Qui sono quelli, hai visto quegli alimentatori che vendono i cinesini? Quelli a 24 euro l'uno, 50 ampere l'uno. 600 watt, 324 accoppiati. Addirittura? Io ne ho sì. E come si fanno? Mi devi organizzare, che siamo... A parte che non so neanche di cosa realmente stai parlando. Di amplificatore stai parlando? No, alimentatore, non amplificatore. Alimentatore, ti fa sia 12 che 24. Ah, oh, vabbè, io quello da 24 ce l'ho, ma cioè da 12 ce l'ho. Alimentato la corrente, fa da 24 a 12. Come da 24 a 12? In che senso? Tu l'attacchi alla corrente e cosa ti manda? Corrente a 12 e a 24? No, a 12 solo, a 12 per il radio. Ah, io ce l'ho sia a 12 che a 24. Lo stesso alimentatore. Ah, questo è 50 ampere a voglia. Questo è 300 ampere a 12 e 150 a 24. A me serve amplificatore, no? Alimentatore. Ma con questo fa andare tutto però, i 1200 e tutto. Quegli amplificatori di camion, questi li fa andare, capito? Con questo hanno alimentato così. Ma il fatto che non ci sono quelli qui, cosa faccio andare? E avanti, chi è? Si può approvare, una buona volta. Vai Franco! Capo! A pensare sì che prima di andare in pensione me lo volevo lavorare uno di quelli modificati. E non la giubilata, perché ho presentato io la niente appena. Ah beh, quello è vero. Ho due che discorsi, sì. Allora, che piace, vabbè, ti divertirai, se ti piace, tutto quello che vuoi, ma neanche per sogno. Mi devo allontanare un attimino, eh. Vabbè, tanta gente la pensa così, ma non è così però. A volte vedo certi commenti da scelte nelle braccia. Tanto non si può usare né uno né l'altro, quindi uno le piace il divertimento e l'altro le piace l'ascolto. Sì, vabbè, però, caspita, un bellacchino, vabbè, c'è gente che per divertirsi, che è giusto anche quello, che spende anche 500-600 euro, spende, per fare una buona radio come quella. Ma è... hai visto quei Colt, quelli neri che si usavano prima nelle barche? Cazzo, li stanno vendendo a 1200-1300 euro. Se mi fa vedere un baracchino c'è solo la M, senza bande, senza niente, solo la M. Sì, ma quelli, anche se hanno la marca Colt, queste cose qua, cosa c'hanno? Che potenza hanno questi qua? Non hanno niente. È un baracchino normale, perché li vendono a questo prezzo? Perché sono rari, capito? Sono ricercati e fanno la bella radio. Che fatto non vedi niente le comparende, il gioco è venuto ai lì, per carità. Ma non hai, ma quanti canali è la barra? Adesso non l'ho neanche guardato, però mi sembra che abbia 40 canali, AM e FM. No, FM non è a... c'ha solo la M, c'ha 120 canali. Certi tipi, certi modelli ce ne hanno solo 80 di canali. Ah, così è solo la M. Sai, solo M c'hanno, non c'hanno né banda né nuda, però nascono dalla fabbrica già con doppio modulatore, eco, regolazione di watt e queste cose. In pratica c'è anche una spinta. Sì, ma nasce già così, col doppio modulatore, tipo il JFK, no? C'ha 120 canali e c'ha il doppio modulatore, solo che quando lo porti a fare le modifiche, quel doppio modulatore c'ha dentro, lo tolgono e ne mettono un altro, oppure le modificano quello. Non l'ho mai visto nessuno, io l'ho visto solo finta, mentre quella radio lì l'ho vista. Non l'ho vista mai a nessuno di vederla proprio di persona. A Bulotto, una canale 45, KK. Allora ce n'è di quella radio, ce ne sono due o tre qua a Sardegna. Capito? Rosetti? E c'è un po' di Abulotto, una canale 45. Davvero? Sì. Passa Massimiliano. Cos'è fra? Passa lì a fare Abulotto. E io ho già Abulotto, come la frutta. Cos'è allora? Io ci vedo l'aurora, Chi è? Io ancora lo sento, sperimento altro. Oh, ora. Così almeno non disturbo, se busso bulo 2, il grigio, l'ala 44. No, è sempre il Lincoln. Positivo. KK. No, stavo ascoltando, ho visto, lo sai, no, che il 48 prende curve da tre parti. Ho visto, non vero, erano al 45. Attenzione, non è il mezzo più 4. No, fra, ho cambiato il microfono, questo è il più 5. Ecco. Esce bene lo stesso. Non mi pare che ci sia bene, un 2 vero mio. Sì, c'è casino alle 45, se ho fatto una volata lì. Adesso inizia. Cos'è fra, esce? Mi sa quello che è il Lincoln, esce meglio il tuo che il mio. Buono, vabbè, ma dipende magari anche dalla timbrica. Io gli ho copiato adesso un altro microfono, perché ne ho fatto comprare uno Antonio, da Gianni. Un più 5 nuovo, siccome lo avevo il mio, allora mi ha fatto la modifica qua e lo sto accoppiando con il preside, però è come che sia un 4, perché praticamente i toni ce li ha a zero. Massimiliano, com'è questa la radio? È buona. Ha cambiato dall'altra? Beh, certo che ha cambiato. C'è anche il BPC. Ma questo è il Lincoln, perché stai usando il BPC. Capo, ma c'è il BPC sotto? Ah, sì. Va bene, quello. E confronta quella di Tino? Il Tino è più forte, ma forse è la sua modulazione così. Se no non si chiamerebbe muscolo. Hai capito, eh? Quello sì, no, vabbè. Quello che lui c'era più forte la modulazione della mia, come... Lui è più grossolano, capito? C'è un abisso, fra, c'è un abisso molto molto molto superiore quella di Tino come modulazione. Vabbè, io sto usando anche le mie 5. Non ce l'hai un più 5 a provare, no? Così fate la stessa cosa. No, un 4 c'ho. Provala a vedere se cambia da 60. Adesso ti provo il un polmare del 44, a vedere se va bene questa struttura dello spettrometro. Aspetti che voglio vedere la modulazione di cosa, rimane un attimo con quella. Sì, tanto nel frattempo faccio. Ok, questo è il 4. Ma c'è un'alternata sotto, eh. C'è un'alternata sotto? Io sento un'alternata, sì. Sì, c'è ancora, però il 60 mi piace di più su quella radio. Provi. Sì, io la sento, Tino. Allora, fra, c'è l'alternata, sì, un bel basso di radio, ma un bel meno, non può. Allora, l'hai tolta per un secondo. Però era passata anche la radio, perché è schiacciato il Michigin. Aspetta, avete parlato in due. Quando è toccato il Michigin, è tolto l'alternata. Ecco, adesso alternata non ce l'è, ma la radio è molto bassa. C'è l'alternata, la radio è... Cappa all'ogiro. Il microfono lì ce l'hai al massimo, così è? Sì, adesso l'ho mettato al massimo, poco fa ce l'avevo attivo. Mettilo al massimo. Ok, così è al massimo. Ma c'è l'alternata sotto, te la porti proprio dietro. Però quella di Tino molto più forte. Ascolta, quando metti il 60 lo usi al massimo il Michigin? Michigin sì, al massimo. Col 60 non te la fa l'alternata. No. Però ma se vediamo, anche io se attacco il 60 è molto più basso di questa, ti fa l'alternata, non te la fa l'alternata però. Adesso tu ce l'hai a manetta e vedi che però l'alternata non ce n'è. No, manetta, se metto a manetta non si capisce, ce l'ho sì. Il microfono è sì, perché si alza appena appena va in distorsione. Ma lui ce l'ha al massimo, il Michigin ce l'ha al minimo perché c'è l'alternata, hai visto? Sì, sì, lo sento, lo sento. Capo, questo invece è il 60 e c'ho il Michigin al massimo. E questo si abbina meglio però, su quella radio, secondo me, per la tua timbrica. Sì, mi sto lasciando questo, gli altri non sono usati. Prima io usavo Corvo, non mi sempre, ed era bello. Adesso non lo va, non ho capito niente. Sai cosa potresti fare? A provare, Fra. Prova a cambiare l'impedenza. 60 per se esce meglio. No, esce peggio. No, era meglio prima. Oh, Massimiliano. E io? Guarda, questo è il palmare. Va bene, buona. La precisazione va bene, non credo che ne abbia, però è chiaro. Credo che sia chiara la modulazione, no? E insomma, un po' così, un po' papelina. Ah, aspetta, forse spostando il mic, guarda, forse perché ce l'avevo troppo attaccato la bocca, guarda un po'. No, non l'ha cambiato te. Va bene, va bene, anche questo mi soffono 43. Io preferisco l'altro, manco la paragone. Vabbè, era giusto per farti sentire anche il normale, ecco. Sì, va bene. Io lo sai cosa gli avevo messo? Cosa gli avevo messo quando avevo il 140? Gli avevo abbinato la V508 e usciva molto bene. In più gli avevo fatto lo spezzone, ci avevo messo, lo sai che cosa? Aiutami a dire. Mamma mia, non mi viene adesso. Quel microfono palmare è molto ricercato, cavolo, amplificato. Va la fate tutto. Com'è che si chiamava? Non. Quello non leggo, come ti chiama? Ciao Cla. Quello leggo. Quello quadrato. Ciao Cla, quello quadrato, F16 mi pare, una cosa del genere, non mi ricordo. No, era nero, mi ci voleva la batteria 9 volts. Aspetta, come si chiamava? Mamma mia, non mi viene. Ma sapete a te c'è? No, claro, quello che ti avevo dato a te, forse te l'avevi comprato tu una trentina di euro, veramente. Ma palmare? Sì, quello palmare, come si chiamava? Cazzo, non ha puntato la lingua. Ah, l'M300. Sì, l'M300. Gli avevo abbinato l'M300 al 140. Ehi, vabbè, mi piace uno che sta chiamando. Ci sentiamo dopo che faccio qualcosa. Ciao Franco, ciao Tino, ciao Massimiliano. Ciao, sempre impegnato, Impegnato, se vuoi ti mando la foto. Ho ritirato una radio da vendere e sto cercando di sistemarla da qualche parte perché, cazzo, Giro Giambino non era più bucata la sua base. Manda, fammi vedere. Interessante. Il prezzo soprattutto è molto interessante, però qua in radio il padrone non vuole dire niente. Il prezzo soprattutto è molto interessante, perché è una radio con i propri coglioni. capito? Ed è nuova, nuova, mai usata. C'è ancora la pellicola nel display. Scatto originale, tutto originale, compreso anche di MC60, capito? Adesso ti mando, dopo ti faccio la foto, sto scaricando una cosa al telefonino, aspetta. Oh, ma non vuole dire niente, ti ha già detto tutto. Tutti zitto, Non ho detto né di chi è e né che radio è, ok? Quindi non ha già detto nulla. Capo di bugnetta. Ho registrato il break, ho registrato, ti abbiamo sentito un attimino, Franco, stai scendo di alternata la manetta. Avanti il break, buonasera, qua a nord dell'isola Sarda, avanti. Ciao Gigi, buonasera anche a te, dai, c'è anche un altro amico che ha chiamato, Un attimino, 1-1 senza spingere, Gigi, provincia di Lecce, io ti ascolto qua dal nord della Sardegna, provincia di Sassari, la mia, 1,5 watt di portante, 20 modulati, in compagnia di qualche amico qua nella Sardegna, te lo mando avanti, Tino, per te. Sì, sentiamo anche a te, la Sicilia, con la buona serata. Saluto, ne approfitto ora che ho il mic, saluto a Gigi, Gigi ti ascolto più pio, ma riesco a toglierti fuori. E un attimo di stand by che l'altro, Vai Franco. Capo, dai, io non entro neanche perché mi stanno chiamando a mangiare, dai, ci sentiamo. Mi prendi tu, Masiria. Ciao Fra, buona carica, batteria, ci sentiamo, là. Va bene. Va bene, dai, avanti l'amico della Sicilia. Socio. Allora, io l'amico di Lecce l'ho ascoltato, a Gigi l'ho ascoltato, con una bella radio di 5 e Santiago quasi 9 qua nell'isola Sarda. Io adesso l'ho ascoltato quando stavo accanando la propagazione, perché poi andava in sovrapposizione anche l'altro amico della Sicilia, ora che l'ho mandato non vuole entrare. Forse è un po' scesa adesso la propagazione. Ma vai, forse un giro il 45 avevo già. Vai che ti ascolto, vai. Ci sei? Sì, sì, sono qua. Boh, io non sento l'eco, non sento niente, non parlo ascolto, lo stesso, quindi non so neanche come stavo andando. Già stavi andando bene, per quello ti ho detto lascia tutto così. Aspetta, tolgo tutto qua. Allora, 1 e 2. E 3. No, vabbè, stavo scorreggiando poco fa, vabbè, forse era troppo alta di Mickey Game. Infatti te l'ho detto. Quando l'hai abbassato però sei andato bene. Lo sai cosa devi fare appena appena? Le devi allungare, ma un pelino la coda dell'eco. Ma proprio un pelo. Ma sai che non mi ricordo perché. Allora, sul girandolo sulla sinistra sì, lo chiudo, quindi a destra lo apro. Era a metà quando mi hai detto di lasciarlo così. Io l'avrei allungato appena, un altro pelino. Ok Gigi, ascoltato. Sì, l'ho fatto, Avanti Gigi, buonasera. Cappa Gigi, tutto ascoltato al 100, tu arrivi allo Santiago di 5, radio 5 perfetta, come che fossi qua. Ti lancio il amico Massimiliano Budolder, anche lui nelle mie coordinate, appena diciamo qualche chilometro distante a me, ma è sempre nella mia zona. Avanti Massimiliano. Positivo, dai, ciao Gigi, grazie per essere entrato, per i saluti. Ti auguro una buona di serata, se vuoi stare qua in QSO non c'è problema, e finché ci sta la propagazione ci possiamo fare un piccolo QSO. Io ti ascolto con una radio di 5 a Santiago di 9. No, io mi chiamo Massimiliano, capito? Bulldozer. Voi mi date un controllo? Sì, siamo più o meno, forse in linea d'aria saremo 5-6 km, capito? Come distanza, allora, sì, siamo nel nord della Sardegna noi, provincia di Sassari, ecco. Hola! Ma dove stanno? Va bene Gigi, no, io mi chiamo Tino, Tango India 90 Oscar, Tino Muscolo, Frazione Muscolo, qua operatore Città di Sassari. C'è qualche amico che vuole entrare avanti? Per Gigi, se lo ascoltate. Non lo so se ascolta me, Gigi. Buonasera Gigi, ascolti lo Sparviero, l'isola della Sardegna, a cambio. Lo sento in mezzo al QRM. Come sta uscendo Lottino? Non è tutto subito, Cosa stai usando? Voilà. Yes, tu hai detto che non esce in il 27, sì, sto usando quello. È uguale a TS2000, solo che non ha le VLU, capito? Forse più basso rispetto al 440, ma devo vedere alcune cosette. Dai. Ok, riprendete, l'impronta stia uscendo. Lo sto provando. Ciao Gigi, se ascolti Claudio Sparviero, ciao. C'è solo un altro. Non è che non esce, ti ho detto che esce male il 27 qua avanti. Sta uscendo, non è perfetta, non è la tua, non è la classica tua modulazione, per carità, uscire esce, va bene uguale, però non è la tua modulazione. Poi Massimiliano, confermi. Sì, ma nel frattempo un baracchino. Vai, fate un brodo, baracchino. Sono in cuffie. Allora, adesso senza processore inserito. Io cosa devi dire a questa radio? Cos'è che lei ridia a questa radio? Che non è come quella che utilizzi tu. Vabbè, va bene, dai. Io sono in cuffie, è la stessa modulazione. Precisa identica, MC60, i watt sono una trentina. E la modulazione è più che bella, più che bella. Certo che adesso si è messo il compressore, è logico che spinge di più, no? E va solo a nome la via, però, sbaglia un baracchino. Ovviamente lasciatemi controllare, non so neanche dove era il processore, ho letto approccio inserito ed è precisa identica al 440 la modulazione, perché sono in cuffie, mi sto ascoltando proprio col 440 senza antenna ed è uguale la modulazione, perlomeno la mia modulazione è uguale. Va bene, dai, proseguite che vado avanti, a frappè. No, è uguale, è buona, buona. Adesso sì, ma poc'anzi mi do una conferma perché era una cacca. Va bene Claudio, ora va bene, è la tua. Sì, ma l'ho già avuta, capito? Non questo modello, ma l'altra è 2000, simile a questo. Andava bene col processore inserito. Fortunatamente funziona anche in AM il processore. Funziona anche in AM. La cosa che non mi piace è il digitale, a me mi piace la lancetta e lo Smith digitale. Massimiliano, mi sono spostato sul 30 per fare delle prove, per cercare di chiedere, cioè sul 30, tu di nel 45, ti sentivo di splatter, datti una regolata. No, oh, lampada di San Radio, non è selettiva se mi senti. Avanti, andiamo in varia, non ti stavo ascoltando con quella radio, ti stavo ascoltando, già mai capito con che cosa, capito? Col baracchino, cioè dal 45 al 30, ti sentivo chiaro, la mazza che tiene varia. Un bel cosettino è quello, là. Davvero? Cazzo, c'è un bel cosettino, minchia papà. Sì, ho attaccato l'Elbex per non attaccare, per ascoltarmi, no, per fare il zonda, così senza antenna, senza niente. Poi l'ho attaccato l'antenna e l'Euro 30 mi gioca ascoltato, ci intendiamo Massimiliano chiaro. No, lo so, io ero qua con il 48, figurati. Che è vero, avanti. Prego. Via. Ehi, Daniele, vieni avanti. Sono rientrato. Anch'io sono in cuffia, ha cambiato la modulazione. Questo qui lo fa un po' ancora più robusta. Quale Massimiliano? L'MC60 non è il mio, è il suo, però l'ho pulito, è nuovo, spero che stia andando bene. Dile se vuole il Cobra. Guarda, si apre l'armadio e ti mando un'altra fotografia, Massimiliano, ma non per fare, cosa ti posso dire? Ma ti mando una foto, guarda, metti in tenda i voti, una foto metti in tenda, è bellissima, c'ha tutta la tastiera illuminata, si illumina tutta, Ma usa di denti e voce, cazzo, ma non ti ricaga bisogno. Bella. Qua dentro l'armadio sono, ma scegli, abbasso voci perché c'è Anna che mi sta ascoltando. Dentro l'armadio ce l'ho. Mamma mia, come sto? Pucci! Ma io vai a portare casa la pipì, vai. Solo che vengono delle tentazioni a te. No, sono già rientrato, quello è il problema. Sono già rientrato. Io, mica c'è un break. Ciao Daniele. Ehi Acra, salutone circolare a tutti, dai. Avanti. Claudio, QTC15. Via, ecco. Avanti il breco, qua nel canale 10. Positivo, ciao, salvo, buonasera anche a te. Sì, abbiamo un po' di propagazione anche noi, noi siamo qua, un gruppettino di amici, facciamo un piccolo QSO, dai. Già, ti iniziamo ad andare avanti uno, salvo, così ti faccio salutare, avanti Cla. Vabbè, Claudio si è spostato, dai, ciao, salvo, si ascolta a me, Tino. Dalla città di Sassari in compagnia di Daniele, te lo mando avanti, dai, poi siamo locale, Vai Daniele, ce lo ascolti. Capa Roger, salutoni l'amico, non so se lui mi ascolta da quelle coordinate, cambio. Positivo, salvo, dai, tutto a posto, qua mi fai un Santiago di 9, Radio 5. E la cosa è bella, capito? La cosa è bella nella provincia di Gela, tutto a posto, dai. E qua siamo noi, tutti i giorni facciamo un piccolo QSO in questo canale, capito? Siamo più o meno tutti nel nord della Sardegna, Salvo, qua mi ripeto Santiago 5, Radio 5, la radio buona. Ci puoi contraccambiare il segnale, grazie, salvo. Che ha fatto positivo, dai, ti lancio Massimiliano, vai Massimiliano. Ma a me mi ascolta. Il più bassottino, vai Daniele. Scappa Rogero, non so se lui mi ascolta perché io qua c'ho Claudio al 15 e mi sta ammazzando. Ti ha ascoltato, dai, Santiago 3, Radio 5, ti ha ascoltato. Vai Massimiliano. Positivo, dai, positivo, noi l'ascoltiamo bene l'amico, Va bene, salvo, tutto a posto, adesso inizia un po' di propagazione, un po' di caldo e ci facciamo un po' di questione, dai, in tutto il mondo. Ciao salvo, buona di serata, buona carica quando la farai e ci sentiamo le prossime. Massimo Bulldozer ti ha salutato qua dal nord dell'isola Sarda. Salvo, ciao, ci si riascolta, Pino Muscolo da questa parte ti ha salutato, dai, buona serata, alle prossimine, quando vuoi siamo qua, vai Daniele. Capa Roger, dai, salutoni, salvo, dai, ben sentito qua, rapporto segnale 5, va bene, dai, buon proseguimento e buon tutto, propaganda permettendo, riprendi Massimiliano. Positivo, Daniele, mettiti quel mezzo squelch che c'hai, se funziona un po'. Quel mezzo squelch, Massimiliano, devo tarare, perché mi sono dimenticato di registrare l'altro giorno, perché si basta un mezzo giro di vita, perché si alla basso. Siamo autorisce del tutto perché è regolato con i segnali troppo alti, capito? Ah, quindi te lo chiude quasi del tutto lo squelce, no? K, passa mezzo giro, ma neanche. Positivo, era per non disturbarti Claudio lì che ce l'hai vicino. No, io sono Claudio, sento tutti quelli che sono sul 15, capito? E prova a abbassarlo, a noi ci senti se lo chiudi. No, Massimiliano, l'ho già fatto e non sento più nessuno. Fino a quanto te lo chiude? E Santiago, fino a quanto lo chiude? Grazie, più di 9 allora. Sì, Massimiliano, sicuramente, perché questo è proprio per stare vicini e parlare, capito? Ah, positivo, e allora vai a cosa? La striscia notizia, vicini. Vai, Tino. Chiappa, vabbè. Quelle radio lì sono così, purtroppo, anche se è abbattimento, poi non puoi regolare più di tanto. Il 48 è un rompimento di scatole. No, perché se lo è l'uso di quella radio, è bella perché esce bene, si fa fare tante di quelle modifiche che avete fatto. Bella perché esce di una bella radio, ma il brutto è che prende tanti colpi, quindi è una radio forse perfetta per utilizzare in macchina, ma non è fatta in fissa. Sì, ma anche in macchina quando c'è un po' di propagazione così, secondo dove sì, ti ammutolisce anche la propagazione, lo sai. E io già lo so, quello lì era mio, lo so, a casa non facevo usarlo. Vedi, se io lo uso qua, non sento più a voi, ma proprio zero completamente. Guarda, non so se tu l'hai conosciuto, la mia prima modifica che è stata fatta in questo 48 me l'aveva portato Gigino Vulcano, da una amico suo, non è Albino però è l'altro, non so se l'hai conosciuto, quello che è morto, non mi ricordo il nome. Giancarlo, certo l'ho conosciuto, ho fatto anche io qualche modifichino lì. Mi ha fatto questa modifica qua e la radio, guarda, va al 100. L'unica cosa che non mi prende bene il segnale, diciamo, il segnale basso, che proprio me le abbatte, ecco, quindi per dire, se ascolto a te arrivi Santiago 7, per dirti com'è, capito? Quindi Daniele, per dire, c'è una radio 7, me lo porta a 3, quest'altra, l'unica cosa è questa, ma quello che dipende dalla regolazione dello Smith a 3. Sì, vabbè, quello già non è un problema. Quando eravamo nell'altro canale, hai provato a spostarti a vedere se mi ascoltavi in altri canali? No, non ci ho neanche provato, si fa lo scala qua, cosa? Ma no, a vanno, è prima. Sì, prima, quando eravamo giù, l'ho capito, su. No, non l'ho fatto, però sicuramente sì. Chi doveva acquistare lo Trent? No, vabbè, non ci ho provato, però sicuramente sì, ti ripeto, raccolgono mondezza. No, vabbè, mi sta piacendo questa perché spinge, sta spingendo e poi ascolto anche i bassi, capito? Quindi sto utilizzando questa anziché l'altra, figurati. KK, però quello lì andava bene, per fare un po' di casino così va bene, capito? Vai Daniele, riprendi. Capa Rogero, io avevo chiesto ad Albino e mi ha detto bisogna farle un non so che modifica per non prendere colpi. Allora, per me non c'è nessuna modifica, secondo me, perché prima mettevano un filtro anti-splatter, cambiavano dei cavi messi un po' più grossi e il 48 non venne, quindi a goi per buco. No, lui mi stava dicendo che si poteva mettere un non so che sistema e smetteva di prendere i colpi. Scusa, Dani. Ehi, non sentivo nessuno. Attino, non lo senti, ti sta chiamando. No, negativo, il mio Smith se scende a zero. Ah, ok, sicuramente c'è Claudio che sta provando. Sto dicendo, ma tu devi andare da Albino. Se devo andare da Albino, così mi ha detto. Eia. Per adesso no, forse prossimamente sì, non so quando però, ma ci devo ritornare. Mettiamoci d'accordo, noi scendiamo assieme, se coincide, e devo fargli portare una radio. Andiamo assieme alla macchina mia, non c'è problema. Massimiliano, non lo sto capendo, mi sta arrivando Santiago 2 qua e sento solo a Claudio. Ascolta, ti ha detto in poche parole che se devi riscendere da Albino, di metterti d'accordo con lui che ti deve portare una radio, capito? E non c'è problema se vuoi scendere con la macchina sua. Ah, ok, no, ma se vuole scendere lo posso accompagnare tranquillamente, scendiamo insieme. Così dicono per la strada. Ehi, vabbè, dai, adesso vediamo un po', mi organizzo un po' il lavoro e tanto lo devo fare questa settimana, la prossima settimana la farò tutta e poi qualche giorno libero già ce lo dovrei avere, dai. Non ho capito, cosa ha detto Massimiliano? Capito, un po' di lavoro? Ascolta, prova a calcare l'altro 48 per vedere se è peggio di quello. Aspetta, devo fare due cusette, aspetta giusto per vedere se riesci a sentirlo con l'altro, quello originale, che magari questo qui è un po' più aperto del radio e si piglia tutto. Ma Claudio, già se ne puoi andare un poco più lontano, sì. Aspetta, guarda se mi ascolti con questo, se mi abbatte anche. Guarda, adesso sembri stabile, perché non sento nessun altro lontano. Ho detto che la prossima settimana faccio dei lavori, poi la prossima ancora possiamo organizzare, dai, io almeno in quel caso andiamo assieme. No, non lo capisco, è peggio anzi. Sento tutto il discorso quando parlo a Tino di Claudio, che è un futtivo da Zerizzendi. Aspetta che cambio radio. Addirittura, Sì, quando stavi parlando tu, sentivo, vedevo solamente il tuo segnale e la voce di Claudio sotto, chiaro chiaro. No, non è prendere colpi con la radio, no. Domani me ne penso l'Occinietti. Vedi Massimiliano, com'è il letto? Va bene ora? Ora che ce l'ho acceso, dai. Sì, va bene. Faccio così allora? Sì, era allungato appena? Sì, appena appena, guarda un po' se va bene, se no continuo a allungare. No, no, lasciala così, così va bene. Ricordati questa posizione e così la puoi usare tranquillamente anche là, capito? Va bene. E tanto là, dice, dai, quando entri con la radio così non ti guardi neanche entrare. Avvisato, Denisi. Ehi, teia, vabbè. Se sei bassino è logico che non ti sento. Prova! Provati! Guarda un po', 1, 2, 3. Oh, zero, anzi, lo sento ancora più chiaro in questo. Prova di nuovo, T. Santiago 9, sì, ora, cosa hai fatto? No, no, no, cavolo, tu c'hai il segnale 5 Claudio sotto quando parli. Cioè, allucinante, cioè Claudio una parte col tuo segnale e la sua voce. Pesciuga, non farti attraversare il radio, falli un pacchetto a tutte e due. No, Massimiliano, con questa neanche a te sento, Cioè, Claudio che ti tappa, con quella no, con questa sì ti tappa. Allora, la rossa mi tappa. Prova di nuovo. Guarda un attimino, a vedere se riesce a tapparmi anche ora. Adesso no. A chi è muto? Ma c'è qualcuno che sta parlando sotto, perché c'ho lo smitter a zero. La stessa QRM. E adesso cosa stai utilizzando? Che radio stai utilizzando? Il 48 originale sto usando. Sarebbe più forte, Perché questo è 6 qualcosa di watt, capito? Comunque lo stavo usando 4 watt in uscita. Ho capito, va bene. Ma comunque adesso dovrebbe andare lì, No, ti sto tappando di nuovo, dai. Va bene ragazzi, approfitto, vi saluto e qua è già pronto, dai, ci sentiamo domani se coincide. Già è poco la cosa, Ciao Daniele, buona serata, buona carica, ci sentiamo, ciao ciao. Caparroggio, dai, salutoni circolari tra la ruota, dai, ciao Tino, ciao Massimiliano. Ciao Daniele, ciao, ci sentiamo, ciao, organizziamo. Il problema non è Otti che arrivare da lui, no? Il problema è che quando parlano loro li fa battimento, per quello che lui non senta nessuno. Lo so Massimiliano, però magari dandogli qualche spinta in più riesci a superare quello che sta supprimendo l'altro, capito? Solo quando lo fa battimento vuol dire che sta andando anche male lui, non è che sì, colpi li prende, però magari con anche spurie. E cosa vuoi ti dica? Io adesso, anche io, stavo tutta la sera abusando dei nomi, adesso anche io me ne vado a pappare. Anche io adesso, io sto preparando un po' di roba per i bimbi e poi e per il bimbo. Ho chiesto la sua ragazza, ma ho quasi finito di studiare, era ora. Perché lei aspetta l'ultimo giorno a farsi i compiti, capito? Quanti anni ha? 10. Il mio ne ha 3 in più, secondo te non è attaccato. Ah, io sono attaccato a questo Fortnite, come ti chiama? Idem, compattate, solo che adesso si è deciso stasera di fare qualche compitino, perché domani deve rientrare. Non lascia merda, non li stanno facendo rientrare domani e poi dopo domani scuola non è. Vabbè, mia figlia il sabato non ci va mai, che entra la mattina alle 8:15 e esce alle 2:10. Ah, ho capito. Ma vabbè, loro vanno andare domani e dopo domani. E poi, vabbè, il 1° maggio, c'è festa, no? È un casino. Potremmo fare se a lunedì. Infatti, l'avrebbero fatto rientrare direttamente lunedì e via, no? E vabbè, cosa vuoi ti dica? Andare, va bene a svegliare. Ma dopo, dai, se in caso dopo cena, se ne ho voglia, accendo altro po', là. Cos'è che voglio, dai? Come non ti andare? Ma ci cercano qualcosa. Buona carica, buona riserata e grazie alla compagnia, dai. Ciao ciao.